sforzo credo, più mi sforzo e più non so capire. La notte perché non se ne va, luce del giorno, luce di un mattino senza colori, in un bosco di alte verità. Basta mani o voglia di andare più in fretta, pedalando più forte sulla mia bicicletta, e nascere e morire in un solo momento. Ho voglia di correre forte come corre il vento. Che conosci bene, il sole che vivere le fa, senza motivo dimentichi improvvisamente la tua età. Proprio là confondi il sogno con la realtà. Stamani ho voglia di fare da solo, di scegliere le strade che ho in mente, ho voglia di credere.